Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo della riapertura dell'anno scolastico con un taglio il più economico possibile, arriveremo per un lungo approfondimento su questo. Vi sono state, come era immaginabile, difficoltà. Va detto, lo dico come sintesi complessiva, che ogni anno quando riapre la scuola purtroppo dobbiamo affrontare il tema degli insegnanti, delle cattedre vacanti, degli insegnanti di sostegno che mancano, e quindi da questo punto di vista sarebbe sbagliato dire che c'è stato un peggioramento. Quello che però è altrettanto chiaro è che nel momento in cui, dopo un periodo così eccezionale che ha tenuto tra lockdown e sospensione estiva e pausa estiva, i ragazzi fuori dalle aule per 6 mesi, è chiaro che tutti i casi di criticità diventano ancora più critici, quindi vengono ancora più notati e sono ancora più da criticare. Sui ritardi su cui si è mosso, diciamo, il governo in materia di dispositivi scolastici, dai banchi al resto, abbiamo parlato per mesi e abbiamo lanciato allarmi in tempi non sospetti. Adesso si tratta di vedere quando la situazione nei plessi scolastici più critici tornerà ad essere, arriverà una forma di normalità. Segnalano, ne parleremo, i presidi, che c'è un tema anche di copertura delle cattedre, solo 25.000 sulle 80.000 richiamati, dovuto anche, però anche qui il tema non è nuovo, dovuto anche al costo della vita, e quindi sostanzialmente a una impossibilità dentro il sistema scolastico italiano di avere una variazione salariale a seconda di dove tu lavori. Non è un mistero, ne ha parlato anche il sindaco di Milano Sala qualche giorno fa, dicendo è difficile vivere con 1.300 euro a Milano. Allora il tema lì può essere affrontato o a livello regionale o comunale, e quindi in Alto Adige per esempio ci sono dei contributi importanti, quella è una regione a statuto autonomo per gli insegnanti, ma un comune, così come una regione, può anche decidere di dare delle agevolazioni. Penso alle tasse di carattere comunale, alle tasse di carattere locale per gli insegnanti che lì volessero trasferirsi. Poi c'è un tema che sottolineano i presidi, ma da cui non se ne esce, e cioè l'assenza di una vera autonomia da parte dei dirigenti scolastici, perché gli scatti, diciamo, l'elemento salariale nel mondo della scuola è ancora sostanzialmente legato all'anzianità. Si era tentato di introdurre il tema del merito, di dare maggiore autonomia ai presidi, e io la spingerei anche per un'autonomia di tipo salariale, cioè con dei premi, ma la cosa chiaramente è stata bloccata, lo dico in maniera molto tranquilla, soprattutto per un'opposizione di fondo nella maggiore autonomia del famoso preside manager, anche dei sindacati, e sempre lì torniamo. Però per quello, ripeto, la valutazione non è mia, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, che ascolteremo poi in un'intervista, ha detto: mancano migliaia di docenti con percentuali variabili da città a città. Perché? Perché i posti ci sono, ma non si trovano gli insegnanti nel settentrione, in quanto la maggior parte non vuole trasferirsi. Con lo stipendio da docente non si vive al nord. So che è un argomento per alcuni tabù, ma prima o poi questa cosa dovremmo affrontarla se vogliamo essere un paese serio, oppure possiamo far finta che il costo della vita a Crotone sia identico a quello di Milano, e allora e nel pubblico impiego non ci debba essere nessuna differenza salariale, nel privato almeno delle volte riesce a contrattarla, e quindi che tutto il paese sia uguale. A me sembra una bella ipocrisia. Ma aggiunge poi Giannelli, nelle discipline scientifiche non ci sono abbastanza laureati e quelli che ci sono non puntano al lavoro nella scuola, visto come poco attrattivo. I laureati più brillanti vogliono giustamente che gli aumenti di stipendio non siano per anzianità ma in base ai meriti. Questo dimostra che il sistema va cambiato e gli incentivi per gli insegnanti devono essere a discrezione dei dirigenti. Anch'io sarei del tutto d'accordo su questo. Al sud invece c'è ancora un problema di spazi e sono arrivati solo il 10% dei banchi. Sono i banchi consegnati, quindi il nord ha un problema sostanzialmente di organico, al sud il problema è il reperimento degli spazi. Quanto ai banchi consegnati sono solo 200.000 sui 2.400.000 previsti, quindi siamo arrivati al 10%. E qui non c'è nessuna novità, nel senso che obiettivamente, l'abbiamo detto in tempi non sospetti, a fine luglio, quando è arrivato il bando per i banchi, era troppo tardi, con buona pace del commissario Arcuri, era troppo tardi. Fine. Poi uno può fare tutte le polemiche che vuole, ma non riesce a produrre, abbiamo ascoltato anche i produttori di materiale scolastico, era impossibile arrivare a soddisfare, anche arrivare vicini a una percentuale, diciamo, soddisfacente in quella che era la richiesta prevista. A Milano c'è una cattedra vacante su 5.100 cattedre vacanti. Di questo parleremo, dicevo, verso 17.40. È atteso anche un intervento del ministro Azzolina, se ho ben capito, alle 17.45. Qualcuno mi scrive sulle gabbie salariali. Guardi, non è il tema delle gabbie salariali inteso come una volta, è riconoscere che se non si vuole fare una selezione inversa, forse bisogna prendere atto che il costo della vita nord-sud, ma anche all'interno del nord o del centro del sud, tra città metropolitana, come costo di appartamenti, come costo della vita, in primo luogo affitto e costo dell'appartamento, e un paese di provincia, è diverso. Poi è chiaro che la differenza più forte si ha se tu prendi la città metropolitana, non so, di Milano, di Torino, e la paragoni a un paese con pochi abitanti del sud, ma è innegabile questo. Ma non è solo un tema nord-sud, è anche un tema nord-nord, quindi è un tema anche di luogo al di là della latitudine, mettiamola così. Però so che è un tabù per molti, e quindi a partire appunto dal mondo sindacale. Per me che gli scatti devono essere solo con l'anzianità, cioè, è il principio meno meritocratico che posso immaginare, perché l'anzianità non è un merito, è semplicemente un dato di fatto, così. Quanto sei rimasto a insegnare non ti dice nulla se hai svolto bene il tuo lavoro, se l'hai svolto male, se gli studenti sono contenti o non contenti. La qualità del tuo lavoro non viene dettata dall'anzianità, abbiate pazienza. Poi che vi possa essere un riconoscimento anche per l'anzianità va benissimo, ma non è in quel modo che riesci a stimolare gli insegnanti. Dopodiché non sto difendendo gli insegnanti tout court, sto dicendo che però un tema salariale c'è, il che non vuol dire che lo debba fare solo il governo. Ripeto, gli enti locali, i comuni e le regioni possono anche attivarsi a loro volta in una parte marginale, per esempio della tassazione. Comunque di questo parleremo poi di altri due temi più prettamente economici. Uno è quello che sta iniziando a emergere sui progetti per utilizzare il Recovery Fund. Allora, il governo invierà al Bruxelles 550, cioè, i progetti candidati sono 557. Parlo del piano che il governo dovrà inviare a gennaio, quello dettagliato. Sono tanti, sono pochi? Beh, insomma, basti ricordare che valgono 677 miliardi. Ora, siccome anche se ricorressimo a tutti i fondi nel corso degli anni messi a disposizione del recovery, quindi non solo quelli a fondo perduto ma anche i prestiti, la quota parte dell'Italia è di 207 miliardi. Quindi, senza essere un grande economista, la richiesta è tripla rispetto a quello che, utilizzando anche ogni singolo euro, potremmo ottenere, ammesso non concesso che ci venga finanziato ogni singolo progetto. È ovvio che l'attività più difficile è quella della scelta in questo momento, e abbiamo chiesto al governo di impegnarsi non nel tenere tutto quanto assieme. Qualcuno dovrà essere deluso, qualcuno sicuramente criticherà le scelte, ma devi scegliere. Poi racconterò perché ci sono progetti che, senza nulla togliere ai settori, non si capisce bene a quale emergenza rispondono. Faccio notare a ministri, governo, che i fondi europei non sono fondi Covid, si chiama Next Generation EU, cioè ha l'obiettivo come cornice di creare condizioni economiche maggiormente competitive, di un'economia più sostenibile, più inclusiva per la Next Generation, quindi i nuovi cittadini europei, già i giovani in primis, già particolarmente penalizzati da questa situazione economica. E ripeto, citerò alcuni casi perché onestamente, con tutto il bene che voglio ai settori, non si capisce che cosa c'entri questo con un piano di Next Generation dell'Unione Europea. In apertura parleremo di un tema che può sembrare settoriale, ma non lo è, cioè chi controlla la borsa. Perché oggi era il giorno della scadenza per presentare le proposte di acquisto. Euronext ha confermato di aver presentato un'offerta non vincolante insieme a Cassa Depositi e Prestiti Equity e Intesa San Paolo sulla borsa italiana. Qui si sta combattendo una battaglia e sarà anche l'occasione per il ritorno dell'appuntamento di ogni lunedì con Alessandro Praterotti, con Dietro la Notizia. Visto che parlavo di borsa, do anche l'aggiornamento. Oggi la giornata è piatta, è priva di grandi spunti: meno 0,20% Milano, più 0,30% Parigi, meno 0,1% Francoforte, meno 0,1% Londra, più 1,20% il Dow Jones. E tra i titoli in negativo CNH, meno 2,80%, Telecom, meno 2%, Banco BPM, meno 1,90%, Eni pure, Saipem, meno 1,5% come Italgas. Fronte opposto, Estima Electronics più 3,40%, Banca Generali più 3,20%, Azimut più 1,30%, Leonardo più 1% come Prismian. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Parlavamo dei titoli energetici, c'è un motivo, insomma il petrolio oggi cede un po' e comunque resta a livelli bassi a $36,9 al barile, meno 1%, l'OPEC ha tagliato le stime sulla domanda petrolifera nel 2020 portandola a 90 milioni di barili al giorno e comunque i rischi restano elevati e puntano al ribasso. Poi arriva l'OCSE nello stimare l'andamento dei vari PIL, prende in considerazione soprattutto i G20, la Cina è l'unico paese del G20 a registrare una crescita più 11,6%, parliamo del secondo trimestre del 2020, mentre come già abbiamo detto in vari altri appuntamenti il PIL mediamente ha fatto meno 11,8%. Per quello che riguarda il crollo, viene definito drammatico in India, meno 20, è riferito rispetto al secondo trimestre dell'anno prima, meno 25% in India, meno 20% in Gran Bretagna, meno 13,8% la Francia, meno 12,8% l'Italia, meno 9,7% la Germania. Poi arriva l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per carità abbiamo criticato più volte, insomma io non capisco il senso di dichiarazioni non di buon senso, neanche di senso comune, da bar dello sport. Cioè voglio dire, dopo che l'OMS aveva sminuito il pericolo del Covid-19 proveniente dalla Cina, ricorderete quella bellissima dichiarazione, a metà gennaio non c'è ancora una dimostrazione che sia trasmissibile da uomo a uomo, complimenti. Dopo le accuse mosse al suo presidente di essere troppo vicino alle posizioni cinesi, beh, diciamo che sicuramente l'OMS il contropelo alla Cina non l'ha fatto, e mentre stiamo ancora cercando di capire come si sia sviluppato questo virus in Cina, nei wet markets oppure in laboratorio, come dice una ricercatrice sotto copertura di Hong Kong, avrete letto forse le indiscrezioni nei giorni scorsi, l'OMS oggi su che cosa ci illumina? Beh, dice che l'autunno sarà duro. E questo, ragazzi, attenzione perché nessuno l'aveva immaginato. Se posso dare un consiglio all'OMS, magari in una prossima nota aggiunga anche l'inverno, perché ricordo l'OMS che le influenze di stagione in Francia, in Germania, in Italia, in Spagna hanno questa caratteristica che tendono a concentrarsi tra l'autunno e l'inverno, meno durante il ferragosto, più durante gennaio e dicembre, soprattutto quelle dovute poi attaccano le vie respiratorie, bronchiti e quant'altro. Raffreddori tendono a essere più presenti a dicembre che ad agosto, e del resto sono contento che l'OMS confermi questa mia supposizione, perché dice che l'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal coronavirus nei mesi di ottobre e novembre. Ripeto, spingetevi un po' più in là nell'analisi, attaccate anche dicembre, gennaio e febbraio, secondo me ce la potete fare come analisi. Diventerà più difficile in ottobre e novembre, vedremo una maggiore mortalità, i decessi aumenteranno a causa dell'attuale incremento dei casi di contagio, sarà un autunno duro. Bene, adesso che lo sappiamo, grazie anche all'OMS, e andiamo avanti. Sempre tra le notizie in breve la vicenda della Brexit. Allora, mentre la Camera dei Comuni in Gran Bretagna ha fatto partire l'iter della legge che va a modificare gli accordi presi dalla Gran Bretagna all'autunno dell'anno scorso, in particolar modo sul confine tra Irlanda del Nord e Irlanda, l'Unione Europea ha detto giustamente, insomma, attenzione, abbiamo detto e scritto tutto necessario in questi giorni, l'accordo di recesso sulla Brexit è la cornice per le relazioni del Regno Unito, senza se e senza ma. E l'Europa continua a dire che da questo punto di vista è inaccettabile che la Gran Bretagna vada a modificare un accordo già preso. Dopodiché invece Downing Street difende il progetto di legge nazionale e dice è contro la minaccia dell'Unione Europea di un blocco alimentare. Insomma, quello che dico io, uno può pensare come vuole in Gran Bretagna, ma avete fatto un accordo a novembre dopo lunghe trattative, lo modificate così. C'è una chat dei deputati conservatori britannici, quindi non certo laburisti, non certo liberali, ma conservatori, che si intitola, non posso tradurla letteralmente perché, ma è che cavolo, non dice proprio che cavolo, sta succedendo in Gran Bretagna, che banalmente ci eravamo permessi anche noi di dire, cioè il paese più pragmatico e concreto europeo, che ha dato lezioni di pragmatismo in questi decenni a tutti gli altri, è come se fosse finito in una specie di stato confusionale. Ma non parlo solo della Brexit, su cui ancora non si capisce cosa vogliono gli inglesi, ma anche la gestione del Covid stessa, le 800 differenti prese di posizione di Boris Johnson pre-Covid, inteso come pre-Covid suo, post-Covid suo, sulle mascherine, fino anche la scuola. Johnson non voleva le mascherine, poi si è adeguato a quello che aveva già deciso la Scozia. Insomma, onestamente si ha difficoltà a capire il perché di questo stato confusionale, e per confusionale non è un giudizio di valore, è un giudizio di fatto, cioè di idee che cambiano continuamente, che sta sviluppando la Gran Bretagna. Due dati ancora sull'Italia per quello che riguarda la Coldiretti. Ha stimato che tra il lockdown e lo smart working vi sarà un aumento quest'anno di 10 miliardi di euro della spesa alimentare degli italiani. Questo per il maggior tempo che si passa fra le mura di casa e in cucina, e anche il minor tempo che passi magari mangiando al bar o al ristorante. Tra l'altro c'è un'analisi, un aumento del 9,2% del valore degli acquisti alimentari nei primi 6 mesi dell'anno, tant'è che c'è stato un più 9,4% degli acquisti di vino al dettaglio, più 16% per la birra, ma anche i salumi più 10%, formaggi più 12,5%, le uova più 22%, gli acquisti di farina più 60%, beh, del resto tutti si sono messi a cucinare, tutti. Molti, e alcuni anche con risultati scarsi, ma durante il lockdown. Il latte più 8, la pasta più 12,5%, l'olio extravergine più 9,5%. Questo però non compensa il crollo dei consumi per le filiere che producono, non va a compensare il crollo dei consumi alimentari fuori casa, dove la Coldiretti stima un calo del valore tra bar, ristoranti e pizzerie di 34 miliardi di euro nel 2020. Nel frattempo che continui a aumentare il risparmio degli italiani, l'abbiamo raccontato noi guardando anche i dati della raccolta, oggi lo conferma anche Assoreti, la raccolta netta positiva a luglio per le reti di consulenti finanziari è stata di 3,9 miliardi, quindi più 28% rispetto a luglio del 2019, più 8,8% rispetto al mese precedente, soprattutto prodotti di risparmio gestito 71%, e quindi insomma c'è in chi ha potuto mantenere i risparmi, addirittura in alcuni casi a crescerli, c'è una tendenza molto forte nel dirottare rispetto ai consumi sui risparmi quello che è il capitale finanziario delle famiglie, in chi ce l'ha. E poi l'Enit diffonde un dato per cui il 58% degli italiani ha in programma almeno un soggiorno in autunno, mare il 57%, montagna il 48%, poi soggiorni enogastronomici 29%, al lago 29%, terme 28%. Si sta già pensando alle vacanze di Natale, uno su tre, e di questi il 92% resterà in Italia. Beh, dico, dopo quello che è successo, difficile che uno abbia tutta questa voglia di spostarsi in altri paesi. Da questo punto di vista faccio notare che già varie aree turistiche, visto poco fa la notizia della Versilia che sposta la chiusura della stagione al 1 novembre, che nel tentativo appunto di recuperare, magari confidando anche in un tempo clemente nel mese di ottobre e novembre, quindi contraddicendo in quello che è la previsione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sarà un autunno rigido, freddo, potevano anche aggiungere con poca luce rispetto all'estate. Va bene, andiamo su meteo e pubblicità e poi partiamo, visto che c'è la chiusura di borsa, anche su questa offerta sulle borse. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. minuti. Allora, la borsa ha chiuso come sono in linea, meno 0,14%, ma di borsa oggi ci occupiamo per un altro motivo. Oggi era il giorno della scadenza per presentare le proposte di acquisto della borsa italiana. La borsa italiana attualmente appartiene alla società LS London Stock Exchange, l'hanno comprata nel 2007 per 1,6 miliardi di euro. C'è un'offerta, anzi ce n'è più di una di offerta, perché oggi è stata confermata l'ultima e quindi Euronext ha confermato di aver presentato un'offerta non vincolante insieme a Cassa Depositi e Prestiti Equity e Intesa San Paolo. Sul piatto ve ne sono altre due però, una è quella della Deutsche Börse che la scorsa settimana ha presentato un'offerta non vincolante, dall'altra della società SIX che gestisce la borsa svizzera e a giugno ha messo sul piatto 2 miliardi e 800 milioni per comprarsi la borsa di Madrid. Ora, SIX, secondo indiscrezione, dovrebbe avere fatto l'offerta più sostanziosa. Qui si parla di un'offerta per la borsa italiana tra 3 miliardi e mezzo e 4 miliardi di euro. C'è però un tema, esiste anche la Golden Power, cioè il fatto che alcuni investimenti stranieri in settori considerati chiave per l'infrastruttura nazionale, per esempio la difesa, la telecomunicazione, l'energia, possono essere limitati dalla cosiddetta Golden Power. E anche su questo bisognerà capire che garanzie darà il governo. Però per capire perché si sia scatenata una gara per arrivare alla conquista della borsa, tra borse, cogliamo l'occasione per tornare a un appuntamento che avevamo sospeso durante l'estate. dietro la notizia. Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore, bentornato. Grazie, e buonasera. Sebastiano. Buonasera a tutti quanti. Ho sentito come presentato, è perfetto, io ho sentito così. Questa è una storia di riassetto finanziario tra grandi operatori delle borse che si presta bene ad essere cavalcata anche politicamente, perché naturalmente la presenza della Cassa Depositi e Prestiti nella cordata di Euronext dà un valore politico a questa vicenda. Tu dicevi la Golden Share. Golden Share che può essere applicata eventualmente solo nei confronti dell'offerta di Sixt, perché quella di Euronext, naturalmente essendo europea, intesa come Eurozona, ricade sotto un diverso ombrello rispetto alla Svizzera. Certo è paradossale che la valorizzazione più alta di borsa italiana, quella fatta dagli svizzeri, che hanno poi, come dicevi, il controllo della borsa spagnola, ecco, quella dell'offerta più alta è quella che attualmente viene data sul mercato come quella con meno chance di vincere. Quella di Euronext ha più chance di tutti, per quale motivo? Sia perché c'è una partecipazione già consolidata su quantità di post trading fra Euronext e Borsa Italiana, ma soprattutto perché qui si tratta di definire chi controllerà le borse europee. Noi abbiamo oggi Deutsche Börse, che è la borsa tedesca, che fa più del 27% del trading europeo, ad esempio nel campo dei titoli di Stato, che va da sola. Abbiamo la Svizzera con la Spagna, che appunto hanno creato il terzo operatore delle borse, e poi c'è Euronext, che sostanzialmente è Parigi. Io dico, la presenza dello Stato italiano è interessante in questa compagine attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, però attenzione, perché la tradizione di Euronext e di Parigi soprattutto è quello di svuotare delle funzioni principali i mercati che compra per concentrarli tra Parigi e Amsterdam, ma soprattutto Parigi. Però detto questo, è anche vero che Cassa Depositi e Prestiti Trading, che è questa gamba pubblica nell'operazione, già partecipa al programma di quotazione delle nuove matricole in borsa, per cui con Borsa Italiana, quindi sostanzialmente c'è una prosecuzione. È un vantaggio per chi? Certamente è un vantaggio per gli azionisti. Qui si sta definendo due cose, soprattutto in Europa: uno, dove si devono scambiare i titoli di Stato, visto che il debito pubblico rappresenta ormai la tranche più grossa del debito circolante in Europa, e questo è rilevante, e poi soprattutto il servizio di gestione dei dati. Ricordiamo che la vendita di Borsa Italiana non ha nulla a che fare con Brexit, cioè questo non è un fallout delle incertezze di Brexit, ma di un'acquisizione fatta a sua volta dalla borsa inglese, perché quando ha comprato la società Refinitiv pochi mesi fa, un'operazione da 27 miliardi di dollari, Refinitiv è controllata al 40% dalla Reuters, quindi si sta creando un polo informativo dei dati finanziari intorno a Londra. Questa è una battaglia interessante che definisce il mercato globale. E tu fai bene a ricordare che da un lato non è detto che l'offerta più alta, quella di Six, proprio perché Svizzera, possa essere quella accolta, perché c'è un tema appunto di Golden Power che non può essere invece esercitato quando l'offerta è europea. Perché lì non perché puoi... le regole europee vietano l'esercizio della Golden Power in questo senso, o anche se, ricordiamo, tutto nasce quando i francesi bloccarono l'operazione italiana sui prodotti in cantieri, e in cui l'Italia era un partner europeo, però l'operazione fu bloccata. Da quel momento in poi furono ridefiniti gli accordi in Europa, decidendo che accordate europee non sarebbero state imposte, o operazioni intra Unione Europea non sarebbero state opposte su barriere nazionali. Questo, ripeto, è interessante perché non vale in questo caso, non sembra valere in questo caso una logica puramente di mercato, cioè la valorizzazione, 4 miliardi di euro da parte degli svizzeri, ma più delle considerazioni di carattere politico. Ricordo questo: in questo momento l'emissione degli euro bond, anche per effetto del recovery fund, collocherà sul mercato miliardi di euro in obbligazioni garantite da tutti gli stati. Beh, su quali piattaforme saranno scambiati? Quelli di Euronext, quelli di Deutsche Börse o di chi? Queste sono partite che stanno veramente dietro le quinte di questa operazione. E tu hai risposto all'ultima domanda già che avevo per te, e cioè perché è così importante, perché riparte il risico borsistico, perché tra le altre cose la piattaforma su cui si scambieranno i titoli di Stato, che in questo momento, come tu ricordavi, sono la stragrande maggioranza poi dei titoli, e diventeranno ancora più importanti con il recovery plan, visto che questi 750 miliardi vanno trovati sul mercato. Esattamente, fra l'altro inserisco una parentesi: Euronext non ha mezzi finanziari per fare questa operazione, quindi dovrebbe fare sicuramente o un'emissione di debito per poterla finanziare, quindi una bond, o altrimenti trovare soldi sul mercato. Al contrario, quella di Svizzera è pienamente finanziata. E da lì appunto il rinnovo degli appetiti su chi controlla le borse, vedremo poi come si chiuderà. Guarda, c'è un dato molto interessante che vi do per chiudere. In questo momento, tutt'oggi, il livello di indebitamento mondiale è arrivato a 235 mila miliardi di dollari, 235 mila miliardi, è pari al 395% del PIL mondiale, una vera esplosione. Siamo a record storici di tutta questa massa, anche a livello mondiale. Una buona metà ormai a livello mondiale la fanno i titoli di Stato. Il debito è la grande sfida cui andremo incontro, sia post, diciamo così, in questi mesi di cercare di trovare le risorse per crescere, ma soprattutto dopo. E fai bene a ricordare che ormai il debito mondiale ha raggiunto il 400% del PIL mondiale. Perché questo? Perché il debito significa titoli di Stato e quindi obbligazioni di Stato, come quelle che poi dovranno essere trattate, ulteriori obbligazioni, attraverso il recovery plan. Grazie anche a Alessandro Paterotti, che ritroveremo lunedì prossimo nell'appuntamento con Dietro la Notizia. Io invece adesso passo a un tema che affronteremo, che stiamo affrontando da mesi, che è diventato un appuntamento fisso nel palinsesto di Radio 24 ogni lunedì alle 9.30. Mi riferisco al tema della scuola, che oggi è tema di cronaca totale e di estrema attualità, perché hanno riaperto non tutte, abbiamo ricordato quali regioni invece apriranno il 24, però insomma oggi era sia numericamente ma anche a livello simbolico il giorno della riapertura, del primo giorno di scuola, 13 regioni su 21, poi l'Alto Adige era partito il 7, e quindi 5 milioni e 600 mila alunne e alunni che hanno finalmente, pur con molte difficoltà in alcuni casi, ripreso le lezioni sospese, lo ricordo, da 6 mesi tra lockdown e pausa estiva. Allora, in apertura dicevamo delle assenze dai banchi agli insegnanti supplenti. Allora, mancano 150.000 supplenti da nominare, i 20.000 ATA da incaricare e 2.000 capi segreteria da reperire. Entro il 24, ha detto il ministro Azzolina, tutti i docenti precari saranno in classe. L'Azzolina ha ricordato che sono state inviate 94 milioni di mascherine a scuola. E poi c'erano altri elementi, cioè non solo quante classi fossero in grado di operare, e abbiamo avuto segnalazioni varie, ma appunto ci sono stati casi in cui il ragazzo, noi riportiamo solo quelle che le agenzie hanno riportate, un ragazzo autistico che è dovuto tornare a casa perché mancava un insegnante di sostegno. Guardate, e giro la valutazione a Maria Piera Ceci, che ringrazio, che sta coordinando non solo oggi Radio Day di Radio 24 sulla scuola, ma anche appunto l'appuntamento all'interno del programma di Alessandro Milan, Tutti a Scuola. Buonasera Maria Piera. Buonasera. Da questo punto di vista va detto una cosa, va detto che questi problemi, lo dico non per difendere nessuno, questi problemi si sono già avuti tutti gli anni, reperimento delle cattedre vacanti e anche degli insegnanti di sostegno. È chiaro che quest'anno la cosa si nota di più perché i ragazzi non venivano a scuola da 6 mesi. E c'era maggiore enfasi, maggiore attenzione, anche maggiore difficoltà. Allora sentiamo in rapida sequenza il Presidente del Consiglio Conte, abbiamo fiducia e entusiasmo, e il Ministro Azzolina dire l'anno è complesso ma andrà tutto bene, speriamo. Oggi è un giorno importante per tutta la comunità nazionale, i nostri ragazzi ritornano a scuola per la maggior parte, quindi come ho detto con fiducia, con entusiasmo viviamo questo giorno importante, e ovviamente l'ho detto, non ci nascondiamo anche delle criticità, continueremo un monitoraggio costante. Questa sera confidiamo di ritrovarci anche a fare un primo bilancio, seguiremo nei prossimi giorni, però siamo anche consapevoli che mai come quest'anno stiamo investendo nella scuola, a dispetto della pandemia. Allora, poco fa il Presidente della Repubblica ha presenziato all'inaugurazione dell'anno scolastico a Vo, comune del Padovano, che ricorderete, prima di avere il lockdown. Quello lì, guarda, lo vedi. Sta intervenendo il Ministro Azzolina. Direttori dei servizi generali e amministrativi, ai docenti, al personale ATA, agli educatori, per l'immenso lavoro di queste settimane. Grazie alle famiglie, luce e guida per le bambine e i bambini. Grazie agli studenti e alle studentesse, siete voi il motore di questa ripartenza. Un grazie di cuore va anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza, sensibilità e attenzione al mondo della scuola. Grazie, Presidente. Nell'ultimo periodo è stata inferta al nostro, come a molti altri paesi, una profonda ferita. Durante questa pandemia ci siamo sentiti disorientati, smarriti. E quando la scuola ha dovuto interrompere le attività didattiche in presenza, è stato un dolore per tutti. È stato come dover abbandonare le nostre certezze, come doverci allontanare dalla nostra casa. Ci siamo dovuti preparare per un viaggio che mai avremmo pensato di affrontare, un percorso complicato e pieno di sfide. Questa difficoltà ha mostrato a tutti, con un'evidenza forse inedita, quanti elementi siano necessari, essenziali, per il buon funzionamento del mondo della scuola a tutti i livelli. Le avversità e gli ostacoli di questo viaggio mi hanno fatto pensare ad Ulisse e al suo lungo peregrinare per tornare nell'amata Itaca. In molti avevano tentato di convincere Ulisse a desistere dal tornare a casa. Altri avevano diffuso notizie false sulla sua morte. Itaca era stata presa d'assalto da persone che non volevano quella terra per amore, ma solo per tornaconto personale. In questi mesi, come Ulisse, la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie, tempeste e peripezie per tornare alla sua normalità. E la scuola, come Itaca, è divenuta terreno di contesa. Ma Ulisse alla fine ce l'ha fatta. È riuscito nell'impresa di tornare a casa. Baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse, scriveva Foscolo. E così come Ulisse, la comunità docente e discente oggi torna alla sua isola, alla sua scuola. Quella scuola che abbiamo fatto ripartire con un lavoro incessante, necessariamente complesso data la portata degli eventi da fronteggiare, ma mosso dall'amore per le nostre studentesse e per i nostri studenti. E non parlo certo solo del lavoro della macchina ministeriale, ma di quello delle migliaia di persone che si sono impegnate in tutta Italia, dal nord al sud, per questo obiettivo che era importante raggiungere come paese. Non è stato semplice per nessuno, non solo lo posso immaginare, ma lo so perché io c'ero, ero lì, sulla nave, insieme a tutta la comunità scolastica. Non l'ho mai abbandonata, come non l'hanno mai abbandonata tutti coloro, e sono tanti, che amano davvero la scuola nel profondo. Farla ripartire era un imperativo morale. Pur immaginando le difficoltà che dovremo affrontare, sappiamo che la scuola è luogo di apprendimento, socialità e anche di legalità. Allora, io vorrei rientrare, era importante far sentire anche l'intervento del ministro Azzolina, che si è commossa, presenti le maggiori cariche dello Stato, sorrido perché ogni tanto guardo anche i WhatsApp, il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente del Senato Casellati, adesso sto guardando insieme a voi le immagini, chiaramente il luogo simbolico di Vo è incontestabile. Però andiamo adesso sulla parte, diciamo, più concreta. Maria Piera Ceci, intanto diamo un giudizio complessivo. Allora, ripeto, non voglio edulcorare nessuna pillola, anche perché in mesi non sospetti siamo arrivati a chiedere le dimissioni del ministro Azzolina per l'assenza di informazioni a maggio, giugno e luglio. È un ritardo su cui secondo me c'è una colpevolezza di fondo, però adesso vorrei andare anche alla presente e al futuro. Diciamo, casi di enormi criticità, al netto dei casi che ogni anno purtroppo siamo abituati, tu che segui questo tema, a raccontare, cioè assenza di insegnanti di sostegno nei primi giorni di scuola, cattedre vacanti nei primi giorni di scuola, supplenti che devono arrivare. Io personalmente non ne ho viste, ma vorrei una conferma da te. Ci sono state alcune classi, alcune scuole che non hanno potuto aprire perché si sono creati verificati dei casi di positività, ma questo, certo. Anche questo si sapeva che sarebbe accaduto, e nemmeno la ministra ha nascosto che questa, nei giorni scorsi, quando ha parlato insomma della riapertura, che questo sarebbe naturalmente potuto accadere. Quindi, se la tua domanda è come è andata oggi, tutto sommato nel complesso è andata abbastanza bene. I mezzi pubblici hanno retto, le scuole hanno riaperto, i ragazzi sono rientrati in classe. Insomma, ricordiamoci che un mese fa non era poi così scontato, anche se la ministra Azzolina, il governo tutto, continuava a ripetere che ciò sarebbe accaduto. In realtà, insomma, certezze non ce n'erano. Quindi, come dici tu, che cosa hanno trovato a scuola i nostri ragazzi? Hanno trovato una scuola con sicuramente delle criticità che si sono andate ad aggiungere dovute alla pandemia, quindi insomma non è stato semplice per i ragazzi trovare un'aula. 50.000 sono rimasti fuori, questo non vuol dire che non sono entrati in aula, ma sono entrati in aula con la mascherina perché non hanno potuto avere il distanziamento. Non ci sono i banchi per tutti, non sono arrivati per tutti, ne mancano circa 2 milioni, che pochi non sono. Ma mancano, da quello che mi funziona come stima, quasi il 90%. Perché infatti ho detto 2 milioni perché devono essere 2 milioni e 4, quindi insomma ne mancano ancora tanti. Infatti oggi insomma anche i nostri colleghi giornalisti si sono divertiti a mandar fuori agenzie di bambini seduti per terra perché avevano magari le sedie e non il banco, e quindi hanno scritto sulle sedie seduti per terra. Ma questo insomma è un po' di, no, di colore, è folklore. Certo che molte scuole invece si sono dovute organizzare in maniera diversa, l'abbiamo sentito anche oggi in effetto giorno. C'è chi ha approfittato dei fondi tanti che sono arrivati alle scuole per comprare ad esempio infrastrutture e delle tensostrutture da mettere davanti alla scuola, perché no? Sono tensostrutture che comunque potranno essere utilizzate per gran parte dell'anno. Era un istituto agrario, quindi tanto spazio, anche qui a Milano ne stanno montando parecchie, quindi di criticità sicuramente ce ne sono tantissime. Si vanno però ad innestare, come ben ricordato tu, su una realtà, quella scolastica, che ha delle criticità ormai strutturali. Certo. E su queste però sarebbe il caso davvero quest'anno di intervenire, perché sono arrivati tanti soldi alla scuola. Se non si fa ora, non si fa più. Vogliamo lanciare il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, l'abbiamo intervistato questa mattina appunto a tutti a scuola ed è stato interessante, sentiamolo insomma a proposito anche delle criticità di questi giorni. Chiaro che il politico di turno al governo minimizza e probabilmente chi è all'opposizione massimizza, quindi bisognerebbe sempre essere nel centro. Noi che siamo del tutto apartitici cerchiamo di essere molto neutri. Come abbiamo detto, le criticità ci sono, non vanno ignorate, non vanno neanche saltate. L'importante però è riuscire a correggere il tiro in corsa. Quello di cui dobbiamo essere consapevoli è che noi abbiamo fatto ripartire una macchina enorme che ha problemi da sempre. Ora, con il Covid non è che i problemi diminuiscono, i problemi semmai aumentano. Ecco, questo mi sembra un'affermazione di una banalità assoluta che però non sempre si ritrova nel dibattito quotidiano. Certo, però Giannelli, sono anche arrivati un po' di soldi finalmente alla scuola, quindi magari chissà che quando tutto questo ambaradan sarà finito non resterà qualcosa di buono alla scuola, se non altro questi banchi nuovi. Io ne sono convinto, do atto, l'abbiamo fatto più volte al governo e alla ministra, di aver fatto arrivare sicuramente molte più risorse che in passato, però dobbiamo avere il coraggio e la capacità progettuale di andare al di là dell'emergenza. Voglio dire, i banchi vanno benissimo, le mascherine vanno benissimo, noi però dobbiamo ripensare la nostra scuola, che aveva tanti problemi prima del Covid. Ne dico una per tutte: il divario terribile negli apprendimenti tra il nord e il sud, tanto per cambiare. E quindi dobbiamo fare in modo che questo si sani, dobbiamo fare in modo che la scuola ritorni a essere un ascensore sociale, funzione che ha perso da molto tempo, come dicono tutte le indagini. Allora, Piera Cicci, resta con noi, perché qui chiaramente si saldano due temi: il ritardo strutturale della scuola italiana, che non scopriamo adesso, e invece l'emergenza Covid. Delle volte si sommano e si confondono anche, sarebbe bene cercare di tenerli distinti. Qualcuno mi dice: dovete chiedere scusa dopo mesi. Che no, non chiedo nessuna scusa, perché se fossero partiti a ragionare sulle strutture dei plessi scolastici a maggio-giugno, secondo me qualche banco in più sarebbe arrivato, quindi abbia pazienza, io non chiedo scusa proprio nessuno sul ritardo con cui si è mosso il governo sul tema scuola. Quindi proprio forse ha capito male il fatto che insomma sia contento perché le scuole sono partite, con un giudizio di valore sull'operato del governo e dell'amministrazione linea sul tema scuola. Comunque GR24, poi altre valutazioni, a partire anche dagli stipendi e dall'assenza degli insegnanti, i tempi con cui verranno colmati i buchi esistenti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti, dunque cerco di sintetizzare i molti messaggi sulla scuola arrivati via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Qualcuno mi dice: guardi, deve ricordare che siamo l'unico paese al mondo, non so se siamo gli unici al mondo, che dà le mascherine gratuite. Sicuramente non la Francia, dove ci sono grosse polemiche, invece le mascherine devono essere portate da casa. Faccio prenotare che molti mi stanno scrivendo che le mascherine a scuola non c'erano e le hanno dovute portare da casa. Ancora il tema degli insegnanti mancanti. Mentre mi scrive, ma lo uso appunto come elemento di testimonianza, una giovane docente precaria di latino, italiano e storia a Brescia, l'anno scorso è entrata in classe il 15 ottobre, qui invece quest'anno dovrei entrare il 22-23 settembre, sarebbe un enorme successo. Quindi alcuni segnalano un'accelerazione. Ora, un'agenzia appena battuta stima in 100.000 le cattedre ancora vacanti. Da quello che ho capito, Piera Ceci, in estrema sintesi, il problema delle cattedre vacanti è soprattutto il problema del nord, mentre al sud c'è un problema degli spazi e con solo il 10% dei banchi complessivamente consegnati, cioè 200.000 su 2.400.000. E il presidente dell'associazione Presidi, Antonello Giannelli, che tu prima hai fatto ascoltare, oggi ha anche detto: attenzione, i professori al nord mancano perché il nord è caro e sarebbe importante che gli aumenti di stipendio arrivassero non solo per anzianità ma anche in base al merito. E questo, insomma, ho sposato questa tesi completamente. Però al di là, diciamo, delle singole posizioni, le cattedre vuote le abbiamo sempre avute, ahimè, e anche l'assenza di insegnanti di supplenza o insegnanti di sostegno. Da quello che tu hai capito, in che tempi riusciremo ad arrivare a una situazione? Lasciamo stare un attimo i banchi, perché come male minore posso anche accettare, tra virgolette, che un ragazzo sia seduto senza un banco. Ho parlato di male minore, purché vi sia l'insegnante che fa, certo, che fa docenza. Prego. Allora, darti una risposta non è semplicissimo, perché lo sappiamo, tutti gli anni c'è da attendere una procedura piuttosto complicata, procedura che quest'anno, forse l'ascoltatrice che citavi prima non dice una cosa sbagliata, nel senso che in effetti la procedura telematica di quest'anno, che pur è stata molto criticata perché ci sono stati dei casi segnalati di anomalie eccetera, comunque un minimo di velocità la garantisce rispetto agli altri anni. Qual è il problema? Gli altri anni era una procedura che cartacea, quindi chiaramente più lenta, molto più lenta. Qual è il problema degli insegnanti che non si trovano? Gli insegnanti che non si trovano tutti gli anni, quindi non è una novità di certo di quest'anno. Dove si vanno a pescare? Si vanno a pescare da un doppio canale: 50% dai concorsi pubblici, il restante dalle graduatorie ad esaurimento. Il problema è che i concorsi pubblici, come sappiamo, sono slittati a dopo l'autunno, quindi per il momento non ci sono. E poi le graduatorie ad esaurimento sono esaurite, scusa il bisticcio di parole, per cui non si sa bene dove andare a pescare questi nuovi insegnanti. La Colveloce, lo sappiamo, è fallita, quella che avrebbe consentito di chiamare insegnanti da altre regioni, e qui si inserisce il discorso degli insegnanti che non vogliono spostarsi al nord, quest'anno ancora di più perché temono comunque un nuovo lockdown. Si va ad aggiungere quest'anno anche la problematica dei professori fragili, cioè i professori che, presentando una regolare certificazione, naturalmente ci vuole il certificato medico che attesti l'impossibilità di stare in classe, e si è deciso che coloro che non possono stare in classe non possono neanche fare didattica a distanza, quindi a casa, personale che verrà comunque, dovrà essere sostituito. Quindi dare una risposta alla tempistica purtroppo non è semplice. Dicevamo problemi strutturali, e questo sicuramente è il problema strutturale principe a cui l'Italia deve mettere mano, e le deve fare anche grazie al fatto che i fondi quest'anno davvero sono arrivati e ne arriveranno altri dall'Europa. È proprio su su questo ha parlato questa mattina Patrizio Bianchi con Simone Spezia. Patrizio Bianchi, lo sappiamo, già capo della task force sulla ripartenza delle scuole voluta dalla ministra Azzolina. Sentiamolo. Io credo che ci sia stato un grande lavoro anche sotterraneo da parte delle scuole, da parte dei docenti, i quali in un primo momento si sono smarriti, ma poi poco alla volta hanno anche recuperato, hanno anche imparato. Io non so se è stato fatto tutto quello che si sarebbe potuto fare. Io credo che sia importante oggi dire si riapre con molte difficoltà, con molte evidenze, e credo che cominci una fase nuova, quella cioè dell'investimento. D'altra parte è il ragionamento che ci domanda l'Europa. L'Europa che cosa ci dice? Non soltanto di riaprire la porta, ma di utilizzare questa riapertura della porta, e quindi credo anche questo spirito generale che si è generato nel Paese a favore della scuola, per fare quegli investimenti che non abbiamo fatto. Perché non dimentichi che dal 2009 al 2012, quando c'era da fare il salto sia tecnologico sia economico, noi abbiamo tagliato. Avevamo l'acqua alla gola, lo capisco, ma abbiamo tagliato. Questo è il momento di prendere anche le risorse che l'Europa mette a disposizione per far fare alla scuola e al Paese un grande salto. Allora, vedo molti messaggi sul tema delle mascherine. Allora, io ho detto semplicemente che in Francia hanno stabilito che le mascherine te le porti a casa. Ho anche ricordato che arrivano molti messaggi che la scuola non aveva a disposizione la mascherina. Sono però anche in parte d'accordo di tutti i problemi che ha la ripartenza della scuola con quanto mi scrive un ascoltatore, ma insomma sti ragazzi o ragazzini quando devono uscire e le mascherine ce le hanno, adesso non meniamo troppo il torrone, scusatemi il termine sulle mascherine. Cioè, ormai adesso di tutti i problemi che ha la scuola italiana, il fatto che tu debba portarti la mascherina da casa mi sembra il minore, anche perché sono gli stessi ragazzi che poi a 14, 15, ma anche a 12, 11 vanno al parco, per fortuna, a giocare, si spostano e le mascherine ce le hanno. Adesso va bene tutto, però non diciamo che il tema è solo sulla mascherina, il tema è non tornare o utilizzare il meno possibile la didattica a distanza, come molte volte ho spiegato. Ultimo tema invece, c'era molta allarme o comunque preoccupazione sul trasporto, dopo la tensione tra regioni e governo centrale e la quadra trovata sul riempimento l'80% della capienza dei mezzi di trasporto locale. Come è andato il trasporto locale? I dati che arrivano dalle città in realtà ci parlano di una situazione piuttosto tranquilla questa mattina, nel senso che chiaramente c'è stato un aumento circa il 20% qui a Milano, e naturalmente i ragazzi si sono spostati anche con i mezzi pubblici, però non ci sono state grossissime criticità. Purtroppo in alcune città le criticità si sono riversate sulle auto private e quindi non è un grande passo avanti. C'è da dire che le scuole si sono organizzate, hanno anche messo delle rastrelliere, hanno incoraggiato ad esempio l'uso della bicicletta, insomma anche qui si sta cercando di fare un piccolo passo avanti anche a livello di sensibilizzazione dei giovani di utilizzare i piedi se possono sicuramente, ma anche la bicicletta. Quindi questa mattina Alessandra Schepisi si è fatta una chiacchierata con Andrea Gibelli di Astra, l'Associazione Nazionale Trasporto Pubblico. Sentiamo cosa ci ha detto. Il bilancio è positivo, la differenziazione dell'apertura delle scuole e la differenziazione di orario ha in qualche modo consentito, con la capacità di carico prevista all'80%, di fare un servizio in sicurezza. Oggi è la prima giornata, ritengo che sia opportuno aspettare almeno una settimana, e importante per noi è che aggiusteremo il tiro giorno per giorno. Penso che ci sia un elemento strutturale che ci accompagnerà nei prossimi mesi e anche nel 2021, dove registriamo una previsione di un meno 20% dovuto alla stabilizzazione dello smart working. Quindi è un elemento che incrocia il concetto di un nuovo modo di intendere il viaggio e anche il lavoro. Allora, noi continueremo a seguire intanto con Maria Piera Ceci ogni lunedì alle 9:30 all'interno del programma di Alessandro Milan, Nessuno 100.000, l'appuntamento con Tutti a Scuola, e continueremo a seguire anche come Radio Day oggi nel GR principale, quello delle 19, dove ritroverete Maria Piera Ceci e anche questa sera con effetto notte la giornata. È, voglio dire, una rondine non fa primavera e una giornata non fa la riapertura delle scuole. Possiamo dire, sulle mascherine non voglio far polemica, ho solo detto che di tutti i problemi che devono affrontare i genitori, orari sballati perché mancano gli spazi, i banchi che ci sono e non ci sono, il tema delle mascherine, cioè, mi sembra, visti i mesi che abbiamo avuto, visto che quello minore, cioè se anche per alcuni giorni le mascherine te le porti da casa, non penso che sia un dramma. Dopodiché alcuni criticano allora il governo e il commissario Arcuri potevano non dire che le mascherine ci sono per tutti. Ho capito, però cerchiamo di stare sulla concretezza. Io vorrei che questo meccanismo andasse avanti, venisse implementato e soprattutto che arrivassero anche gli insegnanti mancanti, come diceva Maria Piera Ceci. Un po' di velocizzazione c'è stata col digitale, però poi, qui chiedo conferma, Piera, adesso il grosso arriverà con il concorso pubblico, metà ottobre? Sì, uno dei due concorsi, quello semplificato per chi ha insegnato già per 36 mesi, quindi quello lì sarà abbastanza veloce perché appunto è stato semplificato anche su richiesta dei sindacati, ne abbiamo parlato a lungo, però insomma la tempistica, siamo a fine ottobre, quindi insomma ci vuole ancora tempo. Per i posti che resteranno vacanti. Grazie a Maria Piera Ceci, adesso grazie, andiamo sul traffico e poi un tema che avevo promesso andando a analizzare i settori industriali di questo paese, pochi se ne sono accorti, ma noi continuiamo a commentare i dati congiunturali, non c'è solo una crisi profonda in tutti i settori legati al turismo e all'assenza di stranieri o i settori legati al mondo del lavoro per l'assenza di impiegati, ancora in smart working, quindi ristoranti, bar, negozi commerciali, tutto. Ma c'è anche un tema che sotto traccia però sta crescendo moltissimo, le modifiche alla nostra vita e non solo, ma in primis questo, causate dal Covid e dalle misure di protezione, stanno mettendo in ginocchio il settore tessile e calzaturiero in questo paese, come i dati diffusi la settimana scorsa sulla produzione industriale hanno mostrato in maniera plastica. Noi ci siamo occupati moltissimo di ristoranti, bar, stabilimenti balneari, alberghi e tutto ciò che ruota attorno all'attività turistica, tra virgolette ci si era distratti su un settore che ha fatto un meno 28% anno su anno nel mese di luglio, quindi con i negozi, i centri commerciali e i grandi magazzini, come si chiamavano una volta, completamente aperti, quindi non per colpa del lockdown, ma per causa dei comportamenti che ne sono seguiti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. E 21 minuti, sì, mi scrivono anche i tassisti, dicono guardi che i tassisti sono a meno 80%, ci mancherebbe, però ripartiamo dai dati. I dati diffusi la settimana scorsa segnalano una difficoltà in tutti i settori e i settori produttivi, però una difficoltà che non dico non fosse prevedibile, ma sicuramente non ha occupato le prime pagine dei giornali, soprattutto nel settore tessile, perché mentre la produzione alimentare a luglio ha tenuto, ha fatto meno 0,4%, la metallurgica ha fatto meno 10% su base annua, i mezzi di trasporto meno 11%, la produzione farmaceutica meno 1,4%, computer elettronica meno 4,4%, qui sto parlando di produzione industriale, quindi non entra il mondo dei servizi, commercio, alberghiero, ristorazione, bar. Dicevo, la produzione tessile ha fatto meno 20,6% sul luglio del 2019. Questo dato mi interessa, è molto brutta anche nel secondo trimestre, quindi aprile, maggio, giugno, ma lì possiamo immaginare che la chiusura forzata dei negozi abbia dato la mazzata finale. È diverso invece analizzare un dato a luglio, quando ormai da giugno, anzi da metà maggio, dal 18 maggio se non ricordo male, tutti gli altri esercizi commerciali avevano riaperto, quindi hai avuto modo di avere più di un mese per tornare a fare gli acquisti, vedere un meno 21% sul 2019. Ringrazio il presidente di Milano Unica, Alessandro Barberis Canonico. Buonasera, presidente. Buonasera dottor Basisoni, a lei e a tutti gli ascoltatori. Voi avete appena tenuto Milano Unica, la Fiera Milano Ro, con 207 aziende espositrici, le collezioni di tessuti, qui parliamo di tessuti e accessori di alta gamma. Però voi siete la fiera di riferimento per i tessuti. Io qui non sto parlando solo dell'alta moda, come mi scrive qualcuno, sto parlando del settore tessile e calzaturiero in generale. Non stiamo dicendo, è ovvio che mancando qualunque avvenimento mondano, dalla cena di gala al matrimonio, ad altri aspetti, cioè al battesimo, qualunque cosa venga meno, probabilmente anche il ricorso alla parte della fascia di moda cosiddetta alta. Ma qui mi sembra di capire, Berberis Canonico, che un quinto della produzione vale su tutti i settori e le fasce, in meno dico. Ah sì, il problema nostro è ancora più forte perché noi siamo fortissimi esportatori, 2/3 del nostro prodotto va all'estero grosso modo. Il problema grosso è che abbiamo avuto delle enormi frenate che sono ancora in atto. Lei citava un dato 20,6, la situazione peggiorerà da qui a fine anno perché i primi 3 mesi sono stati buoni. Questa fase dei secondi 6 mesi non si mostra diciamo così in recupero perché molti mercati come Stati Uniti e Nord Europa sono ancora bloccati. Oggi abbiamo un leggero recupero nella zona asiatica dove sostanzialmente la pandemia è stata controllata, quindi vediamo una Cina in ripresa, un Giappone in ripresa, una Corea in ripresa, Hong Kong ha dei problemi un po' diversi, ma sostanzialmente non si vede una spinta a un veloce recupero. E anche il Nord Europa vediamo timidi segnali, ma l'Inghilterra o meglio di Gran Bretagna è ancora in difficoltà, qualcosa sta migliorando in Francia. Il fattore nostro è, diciamo così, problematico da molti fattori, in molti posti i negozi negli Stati Uniti sono chiusi, il lavoro da remoto è un problema tra i problemi, il turismo e i viaggi sono assenti, l'abito da turismo o l'accessorio appunto per essere eleganti nel viaggio e le cerimonie sono fattori che incidono su un settore che lei ha citato, non è solo lusso, è bello e ben fatto. I 207 espositori sono espositori di qualità, c'erano anche 36 espositori esteri. Di fatto manca l'occasione d'uso per vestire, noi vestiamo, non copriamo, quindi vestiamo con tessuti eleganti che vengono interpretati dai nostri clienti ed è questo che sta minando, ecco, il nostro settore. Per capire, lei ci dice è un cambio culturale, nel senso il fatto appunto che lo smart working ti porti a usare meno abiti, insomma, onestamente meno capi non di abbigliamento. Ecco, volevo capire non questo, capi di abbigliamento perché... o è il blocco sostanzialmente del turismo e quindi anche dell'export, cioè il fatto che per esempio tipicamente non arrivano stranieri anche ad alta possibilità di spesa e vi siano altri paesi che per esempio le città degli Stati Uniti hanno ancora buona parte dei negozi chiusi, cioè pesa di più l'atteggiamento così negli stili di vita o elementi più oggettivi, diciamo? In questo momento in Asia, per esempio, dove la gente sta tornando in ufficio, sta tornando a lavorare e sostanzialmente non ci sono i viaggi, sta beneficiando del fatto invece che i turisti cinesi comprano in Cina, fanno acquisti in Cina e vanno comunque al lavoro. Quindi non è una tendenza in atto. Oggi noi quello che soffriamo principalmente in Europa è il discorso dell'ufficio, il lavoro da remoto e il viaggio sono i due elementi e poi c'è una piccola componente della cerimonia. Ultima domanda, il fatto che i saldi, qui riguarda chiaramente i consumi interni, siano partiti più tardi quest'anno può avere in qualche modo falsato il dato di luglio? No, il dato di luglio, o meglio il crollo di luglio secondo me è dovuto al fatto che il lockdown in molti paesi è venuto proprio nel centro della vendita della stagione estiva, questo è stato l'elemento che non ha permesso un recupero sostanzialmente su fine stagione, perché sostanzialmente quello che non si vende nei mesi di aprile, maggio e giugno, nel nostro settore che ha due curve, e quindi quella parte lì si incomincia poi da luglio in poi a pensare alla collezione invernale, ha fatto sì di avere questa importante riduzione. I saldi nel nostro settore in Italia è un po' diverso, ma all'estero non hanno una componente elevatissima perché è un settore di solito che ha un abito bello ben fatto, di lusso, di alto livello, quindi non è una componente fondamentale per i nostri clienti, ecco, in generale. Allora, vedremo poi come se cambiano i dati anche con un maggior ritorno al lavoro in presenza fisica. perché quello che ci raccontava sull'Asia è interessante, pur non mancando ancora il turismo, il fatto che siano tornati molti lavoratori in presenza fisica e mancando ancora molte cerimonie, però già questo ha contribuito a far ripartire le vendite nell'abbigliamento, nel calzaturiero. Accolgo la battuta di un ascoltatore che dice: beh, andranno bene i produttori di pigiami, immaginando che appunto classicamente uno possa essere in collegamento video con la camicia sopra e il pantalone del pigiama sotto. Mai successo in vita mia. E intanto ringrazio anche il presidente di Milano Unica e quindi di chi rappresenta la fiera di riferimento per il tessile italiano, Alessandro Barberis Canonico. Do appuntamento a tutti voi a domani alle 17 in poi. Intanto l'augurio di una buona serata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.